Savonarola, il frate che fece una brutta fine a Firenze e non se lo meritava, stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari, che scrisse la storia delle sevizie e dell'esecuzione del frate avvenuta in Toscana, quando ormai la Toscana aveva abolito da tempo tanto la tortura quanto la pena capitale. Di fatto Savonarola fu vittima dell'Inquisizione in quella Toscana che poi fu uno dei primi stati ad abolirla del tutto. Andò bene a Villari, che pubblicò il suo libro a Firenze in tempi più felici per uno scrittore, perché proprio a causa dell'abolizione dell'Inquisizione i libri pubblicati in Toscana furono per vari decenni messi all'indice dei libri proibiti da una chiesa particolarmente inviperita. E un libro su Savonarola, figuriamoci se lo avrebbero passato. D'altra parte dice il proverbio che la morte dei lupi è la salute delle pecore, e comunque a popolo pazzo, prete spiritato. Serio, capitolo 13, volume 2, le fiamme dell'ingratitudine. Finalmente i condannati giunsero al primo tribunale e si trovarono in presenza del vescovo di Vasona. Esso aveva obbedito agli ordini del Papa, ma ora sembrava tutto confuso. Non aveva il coraggio di alzare gli occhi sul volto sereno del suo maestro, che innanzi a lui sembrava il giudice e non l'accusato. Pure si cominciava la terribile e quasi funerea cerimonia. I tre frati furono rivestiti del loro abito, onde essere prima degradati e poi di nuovo spogliati. Quando furono al punto della degradazione, il vescovo prese per il braccio il Savonarola, ma la voce gli tremava e l'animo gli mancò, per modo che, dimenticando la consueta formula, in luogo di separarlo solamente dalla chiesa militante, disse: «Separo te ab ecclesia militante atque triunfante». A che il Savonarola, senza punto scomporsi, lo corresse dicendo: «Militante non triunfante, hoc enim tuum non est». E queste parole furono pronunziate con un accento che vibrò nell'animo degli astanti, chiunque potette udirle ne serbò eterna ricordanza. Degradati e spogliati che furono i tre frati, vennero di nuovo con la sola tonacella ceduti al braccio secolare e da questo condotti innanzi ai commissari apostolici, ove udirono la sentenza che li dichiarava scismatici ed eretici. Dopodiché, con crudele ironia, il Romolino li assolvette da ogni peccato e, domandando loro se accettavano la sua assoluzione, essi piegando il capo accennarono di sì. Finalmente si trovarono di faccia agli otto, che misero il partito ai voti secondo la forma consueta e lo vinsero unanimi, se non che un tal Francesco Cini non v'era intervenuto, dicendo non si voler trovare a rendere così iniqua sentenza, la quale fu subito letta agli accusati ed era concepita in questi termini: il gonfaloniere e gli otto, bene considerati i processi dei tre frati e gli immensi delitti che ivi si contengono, e considerata soprattutto la sentenza del Papa che li consegna al tribunale secolare perché fossero puniti, deliberano che ciascuno dei tre frati venga sospeso al patibolo e poi bruciato, a ciò le anime siano affatto separate dai loro corpi. I tre frati allora, con piè sicuro e con animo tranquillo, si avviarono al supplizio. Anche fra Salvestro riprese in quell'ultima ora lo smarrito coraggio ed in presenza della morte parve tornata ad essere un vero e degno discepolo del Savonarola, il quale veramente dette prova di forza sovrumana, non perdendo neppure un solo istante quella calma che troppo gli era necessaria a morir cristianamente. Mentre che insieme ai suoi compagni, con le membra appena ricoperte dalla tonacella, i piedi scalzi e le braccia legate, veniva lentamente condotto dalla ringhiera al patibolo, si permetteva la più sfrenata plebaglia da accostarsi per insultarlo con atti e parole impudenti e vilissime, e gli restò fermo e inalterabile sotto quell'aspro martirio. Fra Salvestro fu il primo cui venne ordinato di salire la scala del supplizio. Quando egli ebbe il laccio intorno al collo, nel momento stesso in cui ricevette la fatale spinta, esclamò: «In manos tuas, Domine, commendo animam meam». Poco dopo il boia, legato il cadavere con la catena, andò subito dall'altro lato della croce per far subire lo stesso supplizio a Fra Domenico, il quale salì rapido con un volto pieno di speranza e quasi di gioia, come se andasse direttamente al cielo. Quando il Savonarola ebbe visto morire i due compagni, toccava a lui prendere quel posto che rimaneva ancora vuoto in mezzo ad essi, ed egli era così rapito ai pensieri di un'altra vita che quasi parea avesse già abbandonato la terra. Ma pure come fu in alto sulla croce, non si poté trattenere dal volgere lo sguardo alla sottoposta moltitudine e gli parve che ad ognuno tardasse di vedere la morte sua. Oh, quanto era diversa da quei giorni nei quali pendeva estatica dalle sue labbra in Santa Maria del Fiore. Ai piedi della croce vide alcuni popolani coi torchi accesi in mano, impazienti da appiccare il fuoco. Allora subito presentò il capo al boia. Il silenzio fu in quel momento universale e terribile. Un fremito d'orrore sembrò invadere quella moltitudine e quasi i monumenti stessi che circondavano la piazza. Pure non mancò chi fece udire la sua voce gridando: «Profeta, è venuto il momento di fare il miracolo!» Tutti gli incidenti di quel giorno sembravano destinati a rimanere incancellabili nella memoria ed a crescere quel senso di misterioso terrore che la morte del suo profeta doveva eternamente lasciare nel popolo di Firenze. Il manigoldo, credendo di compiacere alla sfrenata plebaglia, cominciò a buffoneggiare sul cadavere che ancora si dibatteva, e nel cioffare mancò poco che non precipitasse dall'alto. Questo sceno spettacolo mosse sdegno ed orrore nell'animo di tutti, tanto che i magistrati mandarono severamente a rimproverarne l'autore. Allora quegli volle darsi una grandissima fretta, sperando così che le fiamme cominciassero a bruciare il misero frate prima che fosse morto del tutto, ma gli cadde di mano la catena e mentre che la cercava per rimetterla il Savonarola aveva già dato l'ultimo fiato. Erano le ore 10 antimeridiane del giorno 23 di maggio 1498, moriva in età d'anni 45. Il manigoldo non era anche sceso dalla scala per accendere il fuoco quando le fiamme già si levavano in alto, perché un tale che stava da più ore col torchio acceso in mano lo aveva subito appiccato dicendo: «Finalmente mi trovo a bruciare, chi avrebbe voluto bruciare me?». Ma ecco levarsi un vento che per qualche tempo allontanava le fiamme dai tre cadaveri, onde molti retrocedevano atterriti e gridavano ad alta voce: «Miracolo, miracolo!». Ben presto però, cessato il vento, le fiamme riavvolgevano i corpi dei tre frati e la gente di nuovo si avvicinava. In questo mezzo s'erano consumate le funi che legavano le braccia al Savonarola, onde per l'azione del fuoco, muovendosi le mani, all'occhio dei fedeli sembrò di vedere che egli, in mezzo a quella nuvola di fiamme, levasse in alto la destra e benedicesse il popolo che lo bruciava. I piagnoni accennavano questa visione l'uno all'altro e molti di loro ne erano talmente commossi che, senza considerare al luogo e alla gente fra cui si trovavano, singhiozzando piegavano le ginocchia a terra e adoravano colui che già avevano santificato nel loro cuore. Le donne piangevano dirottamente, i giovani fremevano considerando lo stato infelice a cui erano ridotti, e mentre da un lato v'era tanto dolore, dall'altro si esultava. Gli arrabbiati vicini al patibolo istigavano un'orda di fanciulli che, schiamazzando e danzando, tiravano una grandine di sassi ai tre cadaveri, dai quali si staccavano di tratto in tratto dei brani che cadevano nel fuoco sottoposto. «Piovea viscere e sangue», dice uno scrittore che si trovò presente a quel doloroso scempio, che da un lato cresceva le grida di gioia e dall'altro raddoppiava i vani rammarichii ed il pianto. Molti dei più arditi piagnoni, fra cui delle dame travestite da serve, si aprirono strada tra la folla nemica e pervennero sino al patibolo, ove in mezzo all'universale trambusto poterono celatamente raccogliere le reliquie dei loro santi. Ben presto però furono allontanate dai fanti della signoria, la quale, temendo anch'essa che quelle ceneri potessero operare miracoli, le fece tutte raccogliere sopra carri e dal ponte vecchio gettare in Arno. Ma non si potette impedire a molti di raccogliere i residui lasciati nella piazza o caduti per via, i quali residui, gelosamente conservati in preziose custodie, furono adorati e per molti anni mantennero viva la fede nel frate e la devozione al suo convento. Il giovane Pico della Mirandola, valente erudito e dotto filosofo, credette anch'egli di aver potuto ripescare dall'Arno un pezzo del cuore stesso del Savonarola e assicurava di averne più e più volte sperimentato la miracolosa virtù nelle guarigioni di molte malattie, nello scacciare gli spiriti maligni e via discorrendo. Vennero coniate medaglie, incise immagini, che da tutti i devoti erano ricercate e tenute nascosto, perché oggi mai gli arrabbiati erano padroni di tutto, né si poteva più resistere alla loro furia insolente. Le persecuzioni cominciate allora contro i piagnoni non sembrava che dovessero aver mai fine. Fu chiuso per due mesi il convento di San Marco, privato della contigua fabbrica della Sapienza ove erano i novizi. Gli furono tolti sotto vari pretesti quei libri di Lorenzo il Magnifico per i quali aveva pagato alla Repubblica 3.000 fiorini. Così avvenne ancora di moltissimi altri diritti e privilegi che godeva da lungo tempo. Ne vi mancò pure la sua parte di ridicolo, perché si fecero 5 deliberazioni contro la piagnona, ossia campana maggiore di San Marco, per avere suonato a martello il giorno del tumulto. Essa venne esiliata da Firenze e portata sopra un carro mentre il boia la frustava. Molti frati andarono in esilio, fra i quali Mariano degli Ughi, Roberto da Gagliano, Aurelio Savonarola, fratello di Girolamo, e anche Malatesta Sacromoro, cui il tradimento non valse a far perdonare l'amicizia avuta col suo maestro. Grandissimo fu poi il numero dei cittadini perseguitati come seguaci del frate. Altri non pochi ebbero ordine di presentarsi a Roma, ma si fecero ben presto assolvere mediante danaro pagato ai commissari apostolici. Niuno però si poteva liberare dagli insulti continui di una sfrenata plebaglia. Dappertutto si udivano canzoni oscene e ingiuriose contro i piagnoni e le loro orazioni erano di continuo interrotte. La notte di Natale, per maggiore dispregio alla memoria del Savonarola, fecero gli arrabbiati correre in Duomo un vile giumento che poi, a furia di bastonate, lasciarono morto sulla soglia. Non di meno, ogni anno nella notte del 23 di maggio, quel luogo medesimo ove i tre frati avevano sostenuto il martirio si trovava sparso di fiori. I più costanti seguaci si dettero a scrivere in segreto apologie o biografie del Savonarola, dipingevano quadri religiosi, leggevano le prediche, attendevano la verificazione dei suoi vaticini. Lo stesso giorno, 23 di maggio, i Dieci scrivevano a Roma e ad altre corti d'Italia dicendo: quei frati aver avuto fine condegno alle loro pestifere sedizioni. Da Roma, da Milano, da ogni parte vennero alla signoria lettere di congratulazione e d'encomio. Solamente Luigi XII, che era successo a Carlo VIII, scriveva e pregava caldissimamente che fosse sospesa l'esecuzione della sentenza per ragioni gravissime che avrebbe in altra sua comunicate. Ma il giorno in cui esso inviava quella lettera, già le ceneri dei tre martiri erano in Arno.